Sono 20 anni di un progressivo e costante successo, il che non è scontato quando si parla di sale cinematografiche. Questa è una sala cinematografica forse un po' atipica perché è all'aperto, ma è una sala cinematografica che ha una grandissima tradizione, è uno spazio molto amato dai bolognesi, è uno spazio in realtà molto importante per la città, tra il centro storico e la prima periferia, è un quartiere mitico come quello della Bolognina e da molti anni è l'arena che registra il maggior numero di biglietti venduti a livello italiano e questo successo è appunto un successo progressivo, cioè ogni anno ha un numero importante di spettatori in più. Questo va un po' in controtendenza con un clima generale che da qualche anno ci fa pensare che ci sia una grande crisi attorno alla sala cinematografica e dimostra anche che andando verso le esigenze del pubblico, quindi per esempio proiettando all'aperto, si può incontrare questo pubblico. Il programma è ancora ricchissimo, consente a chi ha perso dei film importanti della stagione di rivedere una cornice un po' speciale come quella dell'Arena Puccini, ma anche di tradizione nella seconda parte, quindi nella programmazione di agosto e di inizio settembre ci sarà anche l'annuncio dei film della prossima stagione. Credo che sia un luogo che fa parte ormai dell'immaginario radicato del pubblico della nostra città e non solo, perché tutti gli anni vengono comunque tantissimi autori che sono felici di presentare o ripresentare al pubblico bolognese in questa cornice così particolare le loro opere. Per ricominciare il cinema in piazza. Ci siamo, è già tutto montato, lunedì annunciamo il programma del cinema ritrovato e la settimana successiva quello di tutta la programmazione della piazza. Ci siamo, devo dire siamo molto molto soddisfatti dei programmi. Ci fa qualche anticipazione, qualche ospite? Uno lo sappiamo, è Wenders che verrà anche all'Arena Puccini a presentare il suo Buona Vista Social Club e sarà anche in Piazza Maggiore almeno un'altra volta, forse di più.